Capitolo 19. Dopotutto, aveva detto una volta Anna a Marilla, credo che le giornate più piacevoli o più belle non siano quelle in cui accade qualcosa di magnifico, di meraviglioso o di eccitante, ma quelle che portano piccoli piaceri semplici che si susseguono dolcemente come perle che si sgranino sul filo. La vita a Green Gables era piena di giorni come questi, giacché le avventure e le disavventure di Anna, come quelle degli altri, non accadevano tutte insieme, ma si snocciolavano nel corso dell'anno con lunghi tratti di giorni felici, senza storia, colmi di lavoro e di sogni e di risa e di lezioni. Una simile giornata si ebbe verso la fine di agosto. Nella mattinata Anna e Diana portarono i gemelli in estasi sul laghetto fino alla spiaggia per raccogliere erbe aromatiche e per remare nella risacca sulla quale il vento suonava come su un'arpa, un antico poema vecchio come il mondo. Nel pomeriggio Anna scese a piedi nella vecchia casa degli Irving per vedere Paul. Lo trovò sdraiato sull'argine erboso accanto al folto boschetto di abeti che a nord proteggeva la casa, assorto in un libro di fiabe. Vedendola balzò in piedi, raggiante. Oh, sono così contento che sia venuta, signorina maestra, disse con calore, perché la nonna è via. Vuole fermarsi a prendere il tè con me? È triste prendere il tè da soli, lei lo sa bene, signorina maestra. Ho pensato di chiedere a Mary Jo di sedersi a prendere il tè con me, ma non credo che la nonna approverebbe. Dice che i francesi vanno tenuti al loro posto. E in ogni caso è difficile parlare con Mary Jo. Non fa che ridere e dire bene, tu batti tutti i ragazzi che ho mai conosciuto. Non è così che immagino una conversazione. Certo che mi fermo a prendere il tè, disse Anna allegra. Morivo dalla voglia che tu me lo chiedessi. Ho ancora l'acquolina in bocca per quei deliziosi pasticcini di pasta frolla che mi ha offerto tua nonna l'ultima volta che sono venuta qua. Paul si fece molto serio. Se dipendesse da me, signorina maestra, disse, stando in piedi accanto ad Anna, con le mani in tasca e il bel visetto adombrato da un'improvvisa preoccupazione. Di pasticcini ne avrebbe quanti ne vuole, ma dipende da Mary Jo. Ho sentito la nonna dirle, prima di andare via, che non doveva darmene perché sono troppo sostanziosi per lo stomaco di un bambino. Ma può darsi che Mary Jo ne porti qualcuno per lei, se io prometto di non toccarli. Speriamo per il meglio. Eh sì, speriamo, convenne Anna, alla quale questa allegra filosofia conveniva perfettamente. E se Mary Jo si dimostrerà senza cuore, non mi darà neanche un pasticcino, non ha alcuna importanza, perciò non devi preoccuparti. È sicura che non le dispiaccia? Chiese Paul con ansia. Assolutamente sicura, tesoro mio. Allora non mi preoccupo, fece Paul con un lungo sospiro di sollievo. Soprattutto perché sono convinto che Mary Jo darà ascolto al buonsenso. Non che sia irragionevole per natura, ma ha imparato dall'esperienza che non conviene disobbedire agli ordini delle nonne. La nonna è una bravissima donna, ma la gente deve fare quello che vuole lei. Stamattina era molto soddisfatta di me perché ero riuscito alla fine a mangiare tutta la scodella di zuppa. È stato uno sforzo enorme, ma alla fine ci sono riuscito. La nonna si è finalmente convinta che riuscirà a fare di me un uomo. Ma signorina maestra, volevo farle una domanda molto importante. Promette di rispondermi sinceramente? Ci proverò, promise Anna. Crede che io abbia qualcosa di storto nel cervello? Chiese Paul, come se la sua esistenza dipendesse da quella risposta. Misericordia, no, Paul! Esclamò Anna sorpresa. Certo che no. Chi ti ha messo in testa una simile idea? Mary Jo, ma lei non sa che l'ho sentita ieri. Ieri sera Veronica, la ragazza che lavora a giornata dalla signora Sloane, è venuta a trovare Mary Jo e mentre passavo nell'atrio le ho sentite parlare in cucina. Ho sentito Mary Jo che diceva: quel Paul è un ragazzino proprio strano, parla in modo così strano. Credo che abbia qualcosa di storto nel cervello. Ieri sera non sono riuscito ad addormentarmi per tanto tempo pensandoci e mi chiedevo se Mary Jo avesse ragione. Non riuscivo a sopportare l'idea di chiederlo alla nonna, non so perché, ma poi ho deciso di chiederlo a lei. Sono così contento che lei pensi che io ho il cervello a posto. Ma certo che l'hai a posto. Mary Jo è una ragazza leggera e ignorante, non devi far caso a quello che dice. Fece Anna indignata, decidendo in cuor suo d'avvertire discretamente la signora Irving sull'opportunità di mettere un freno alla lingua di Mary Jo. Beh, mi sono tolto un peso dal cuore. Ora sono perfettamente felice, signorina maestra, grazie a lei. Non sarebbe bello se avessi qualcosa di storto nel cervello. Credo che Mary Jo la pensa così perché qualche volta le racconto quello che penso delle cose. È un'abitudine alquanto pericolosa, ammise Anna dal profondo della sua personale esperienza. Beh, tra poco le dirò i pensieri che ho raccontato a Mary Jo e lei potrà giudicare per suo conto se c'è qualcosa di strano in essi, disse Paul. Ma preferisco aspettare che faccia buio. È proprio allora che muoio dalla voglia di parlare con la gente e quando non c'è nessun altro a portata di mano devo dirlo a Mary Jo. Ma dopo quanto è successo non lo farò più, altrimenti immagina che io abbia qualcosa di storto nel cervello. Morirò dalla voglia, ma mi terrò tutto dentro. E se proprio non ce la fai, puoi venire a Green Gables a raccontare a me i tuoi pensieri, suggerì Anna con tutta la gravità che la rendeva così cara ai bambini, i quali desiderano tanto essere presi sul serio. Sì, lo farò, ma spero che quando vengo non ci sia Davy perché mi fa le boccacce. Non che me ne importi molto perché lui è così piccolo mentre io sono grande. Comunque non è bello che qualcuno ti faccia le boccacce e Davy ne fa di impressionanti. A volte mi prende la paura che la sua faccia non riesca più a raddrizzarsi. Me le fa in chiesa, quando dovrei pensare alle cose sacre. Però ad ora sono simpatico e anche lei mi è simpatica. Ma lo era di più prima che dicessi a Minnie Mayberry che aveva intenzione di sposarmi quando fossi cresciuto. Può darsi che sposi qualcuno quando sarò grande, ma sono troppo piccolo per pensarci ora, non è vero, signorina maestra? Sì, sei un po' troppo piccolo, convenne la maestra. A proposito di matrimoni, mi viene in mente un'altra cosa che mi ha dato da pensare ultimamente, continuò Paul. La settimana scorsa un giorno è venuta la signora Linde a prendere il tè con la nonna e la nonna ha voluto che le mostrassi il ritratto di mammina, quello che il babbo mi ha mandato per regalo di compleanno. Io non avevo proprio voglia di mostrarlo alla signora Linde. La signora Linde è una donna buona e gentile, ma non è il tipo di persona a cui hai voglia di mostrare il ritratto di tua madre. Lei lo capisce, signorina maestra. Naturalmente ho obbedito alla nonna. La signora Linde ha detto che era molto graziosa, ma che pareva un'attrice e che doveva essere stata molto più giovane del babbo. Poi ha detto: uno di questi giorni è probabile che tuo padre si risposi. Non ti piacerebbe avere una nuova mamma, signorino Paul? Beh, l'idea mi ha quasi tolto il fiato, signorina maestra, ma non volevo che la signora Linde se ne accorgesse. L'ho guardata dritto in faccia così e le ho detto: signora Linde, il babbo è stato così bravo a trovare la mia prima mamma che confido sarà altrettanto bravo a trovarne una seconda. E so che posso fidarmi, signorina maestra, però spero con tutto il cuore che se mai il babbo decida di darmi una nuova mamma, chieda la mia opinione su di lei prima che sia troppo tardi. Oh, ecco Mary Jo che viene a chiamarci per il tè. Vado a consultarmi con lei per i pasticcini. Come risultato di questo consulto comparvero i pasticcini e Mary Jo aggiunse un piatto di marmellate. Anna versò il tè e lei e Paul fecero un'allegra merenda nel vecchio salotto in penombra, le cui finestre erano aperte alle brezze del golfo, e dissero tante e tante sciocchezze che Mary Jo ne fu molto scandalizzata e informò Veronica la sera dopo che anche la signorina della scuola era strana quanto Paul. Dopo il tè, Paul portò Anna nella sua stanza per mostrarle il ritratto della mamma, che era il misterioso regalo di compleanno nascosto dalla signora Irving nella libreria. La stanzetta di Paul, dal soffitto basso, era un dolce turbinio di luce rossastra proveniente dal sole che tramontava sul mare e un mulinello di ombre di abeti che crescevano accanto alla finestra. In questo tenero e glorioso bagliore brillava un dolce volto di fanciulla con teneri occhi di mamma appeso al muro ai piedi del letto. Ecco la mia mammina, disse Paul con orgoglioso affetto. Ho detto alla nonna di appenderla lì dove potessi vederla appena apro gli occhi al mattino. Ora non mi importa più di non avere la luce a letto perché mi sembra che la mia mammina sia qui con me. Il babbo sapeva bene che cosa mi avrebbe fatto piacere come regalo di compleanno, anche se non me lo aveva mai chiesto. Non è meraviglioso pensare a tutte le cose che capiscono i papà? Tua madre era molto carina, Paul, e tu le assomigli un po', ma lei ha i capelli e gli occhi più scuri dei tuoi. Io ho gli occhi dello stesso colore di quelli di mio padre, disse Paul, che svolazzava per la stanza per ammucchiare tutti i cuscini che trovava sul sedile davanti alla finestra. Ma il babbo ha i capelli grigi. Ne ha tanti, ma grigi. Sa, ha quasi 50 anni. È una bella età, vero? Ma lui è vecchio solo dal di fuori, dentro è giovane come gli altri. Ora, signorina maestra, per favore si sieda qui e io mi siederò ai suoi piedi. Posso appoggiare la testa sulle sue ginocchia? Così ce ne stavamo seduti io e la mamma. Oh, come sono contento! Beh, e ora vorrei sentire questi pensieri che Mary Jo trova così strani, disse Anna, accarezzando la sua testolina ricciuta. Paul non aveva mai bisogno di essere incoraggiato per esporre i suoi pensieri agli spiriti affini, perlomeno. Li ho pensati una sera nel boschetto di abeti, disse con aria sognante. Naturalmente, non è che io ci creda, ma li ho pensati. Lei lo sa, signorina maestra. E poi volevo dirli a qualcuno, e non c'era che Mary Jo. Era nel tinello a fare il pane, io mi sono seduto sulla panca accanto a lei e ho detto: Mary Jo, lo sai cosa penso? Penso che la stella della sera sia un faro, là nella terra dove vivono le fate. E Mary Jo ha detto: Bene, sei proprio strano, non esistono le fate, lo sai? Beh, mi sono sentito provocare, certo che lo sapevo che le fate non esistono, lei lo sa bene, signorina maestra. Allora ci ho riprovato con molta pazienza. Ho detto: E allora, Mary Jo, sai cosa penso? Penso che un angelo cammini sul mondo dopo che il sole è tramontato, un angelo bianco, alto, grande, con le ali argentee ripiegate, il quale cantando fa addormentare i fiori e gli uccelli. I bambini possono udirlo se sono capaci di ascoltare. Allora Mary Jo ha sollevato le mani dalla farina e ha detto: Bene, sei il solito ragazzo strano, mi fai spaventare, lo sai? E veramente aveva l'aria spaventata. Allora sono uscito e ho sussurrato al giardino il resto dei miei pensieri. In giardino c'era una piccola betulla che è morta. Nonna dice che è stato il salino ad ucciderla, ma io credo che la sua driade, quella che vi abitava, fosse una driade sciocca, la quale se n'è andata in giro bighellonando per vedere il mondo e si è perduta. E l'alberello era così solo che è morto di crepacuore. E quando la povera sciocca driade si stancherà del mondo e tornerà al suo albero, sarà il suo cuore a spezzarsi, concluse Anna. Sì, ma se le driadi sono sciocche debbono sopportarne le conseguenze, proprio come la gente vera, fece Paul gravemente. Lo sa che cosa penso della luna nuova, signorina maestra? Penso che sia una piccola barca d'oro piena di sogni. E se urta appena una nuvola, qualcuno si rovescia e cade nel tuo sonno. Proprio così, signorina maestra. Oh, lei lo sa così bene. E penso che le violette siano dei pezzettini di cielo caduti giù quando gli angeli hanno ritagliato i buchi perché attraverso vi brillassero le stelle. E i bottoni d'oro sono fatti di luce di sole. E i fiori di pisello, quando andranno in paradiso, diventeranno farfalle. Ora, signorina maestra, lei li trova proprio così strani questi pensieri? No, bimbo mio, non sono affatto strani. Sono pensieri insoliti e belli per un ragazzo, e perciò chi non è capace di pensare nulla del genere per suo conto, nemmeno se provasse per 100 anni, li trova strani. Ma tu continua a pensarli, Paul. Un giorno, credo, tu diventerai un poeta. Quando Anna tornò a casa, trovò un ragazzo di ben altra specie che aspettava di essere messo a letto. Davy era di umore nero e quando Anna lo ebbe svestito saltò nel letto e nascose la faccia nel cuscino. Davy, hai dimenticato di dire le preghiere? Lo ammonì Anna con tono di rimprovero. Non l'ho dimenticato, rispose Davy con aria di sfida, ma non dirò più le preghiere, ecco, e smetterò di cercare di essere buono, perché per quanto buono io sia, tu preferisci sempre Paul Irving a me, perciò tanto vale che sia cattivo e almeno mi diverta. Io non preferisco Paul Irving, ribatté Anna tutta seria. Voglio bene anche a te, ma in un modo diverso. Ma io voglio che tu mi voglia bene nello stesso modo, disse Davy tenendo il broncio. Non si può volere bene a persone diverse nello stesso modo. Tu non vuoi bene a me e ad Ora nello stesso modo, vero? Davy si rizzò a sedere e rifletté. No, ammise alla fine. Voglio bene ad Ora perché è mia sorella, ma voglio bene a te perché sei tu. E io voglio bene a Davy perché è Davy e a Paul perché è Paul, disse Anna allegramente. Va bene, quando è così vorrei aver già detto le preghiere, aggiunse Davy, convinto della logica del discorso, ma ora mi secca troppo tirarmi fuori dal letto per dirle. Le dirò due volte domani mattina, Anna. Non va bene lo stesso? No, Anna fu categorica, non andava affatto bene lo stesso, sicché Davy strisciò fuori e si inginocchiò ai piedi del letto. Quando ebbe finito di recitare le preghiere, si accoccolò sui piccoli talloni bruni e nudi e alzò gli occhi a guardarla. Anna, sono più buono di come ero una volta. Sì, è vero, Davy, disse Anna, che non lesinava mai un elogio quando era il caso. Lo so che sono più buono, sussurrò Davy con aria sicura di sé, e ti dico il perché. Oggi Marilla mi ha dato due fette di pane e marmellata, una per me e una per Dora. Una era un bel po' più grossa dell'altra e Marilla non ha detto qual era la mia, ma io ho dato la più grossa a Dora. È stata una vera bontà da parte mia, eh? Sei stato buono e in più ti sei comportato davvero ometto, Davy. Certo, ammise Davy. Dora non aveva una gran fame e ha mangiato soltanto metà della sua fetta e ha dato il resto a me, ma io non sapevo che l'avrebbe fatto quando gliel'ho data e quindi sono stato buono. Al crepuscolo, Anna si avviò lentamente alla sorgente delle Driadi e vide Gilbert Blythe scendere giù dal bosco, stregato, immerso nell'ombra. Si rese conto di colpo che Gilbert non era più un ragazzo e che aria virile aveva, alto com'era, con il volto franco, gli occhi chiari, le ali, le larghe spalle. Anna pensò che Gilbert era davvero un bel ragazzo, anche se non assomigliava affatto al suo uomo ideale. Lei e Diana avevano deciso da tempo qual era il tipo di uomo che ammiravano e avevano gusti esattamente simili. Doveva essere molto alto e di aspetto distinto, con occhi malinconici, misteriosi e una voce tenera e pastosa. Non c'era nulla, né di malinconico né di misterioso nella fisionomia di Gilbert, ma ovviamente tra amici non importava. Gilbert, allungando il passo, uscì tra le felci accanto alla sorgente e guardò Anna con aria felice. Se qualcuno avesse chiesto a Gilbert di descrivere la sua donna ideale, la descrizione avrebbe corrisposto punto per punto ad Anna, comprese le 7 minuscole lentiggini la cui odiosa presenza ancora l'affliggeva. Gilbert era ancora poco più che un ragazzo, ma un ragazzo ha i suoi sogni, come gli altri. E nel futuro di Gilbert c'era sempre una fanciulla con enormi, limpidi occhi grigi e un volto fine e delicato come un fiore. Egli aveva deciso inoltre che il suo avvenire doveva essere degno della sua dea. Anche nella tranquilla Avonlea non mancavano le tentazioni. La gioventù di White Sands era molto propensa a godersi la vita e Gilbert era ben voluto e conteso da tutti. Egli, tuttavia, si era ripromesso di mantenersi degno dell'amicizia e forse un giorno lontano dell'amore di Anna, e sorvegliava parole, pensieri e azioni con vigile premura, come se i cari occhi di Anna dovessero giudicarli prima o poi. Ella aveva su di lui l'influenza inconscia che ogni fanciulla che nutra alti e puri ideali esercita sui suoi amici, un'influenza che si sarebbe mantenuta finché ella avesse tenuto fede a quegli ideali e che avrebbe certamente perduto se li avesse traditi. Agli occhi di Gilbert il fascino maggiore di Anna consisteva nel fatto che ella non si abbandonava mai alle piccinerie di tante ragazze di Avonlea, piccole gelosie, piccoli raggiri e rivalità, smanie di accattivarsi le altrui simpatie. Anna si teneva in disparte da tutto questo, non consciamente o per partito preso, ma semplicemente perché questa sorta di cose erano del tutto estranee alla sua natura trasparente, impulsiva, chiara come il cristallo. Gilbert, tuttavia, non si azzardò a esprimere i suoi pensieri in parole, poiché aveva già troppi buoni motivi per sapere che Anna avrebbe spietatamente e gelidamente troncato sul nascere ogni tentativo sentimentale, o avrebbe addirittura riso di lui, il che sarebbe stato 10 volte peggio. Sembri proprio una driade sotto quella betulla, disse come per stuzzicarla. Amo le betulle, rispose Anna, appoggiando la guancia contro il raso vellutato del tronco slanciato, con uno di quei gesti carezzevoli e graziosi che le venivano così naturali. Allora ti farà piacere sapere che il signor Spencer ha deciso di piantare un filare di betulle bianche lungo il lato verso la strada della fattoria, per incoraggiamento della spa, disse Gilbert. Me ne parlava oggi. Spencer è la persona più aperta e più dotata di senso civico di Avonlea, e il signor William Bell ha intenzione di abbellire con una siepe di abeti il lato sulla strada e il viale di accesso al podere. La nostra società è avviata magnificamente, Anna. Lo stadio sperimentale è passato ed è sai ormai un fatto accettato. Altra gente sta cominciando a interessarsene e a White Sands pensano di fondarne una simile. Perfino Elisha Wright ha mutato parere dal giorno in cui gli americani dell'albergo hanno fatto un picnic sulla spiaggia. Hanno talmente apprezzato le nostre strade e hanno detto che erano molto meglio tenute che in qualsiasi altro luogo dell'isola. E quando a tempo debito gli altri proprietari seguiranno l'esempio del signor Spencer e pianteranno alberi ornamentali e siepi lungo i poderi, Avon Lee diventerà il posto più bello di tutta la provincia. La società di mutuo soccorso parla di assumersi l'onere dell'abbellimento del cimitero, disse Anna. E spero proprio che lo facciano, perché si dovrà lanciare una sottoscrizione e non sarebbe il caso che toccasse a noi dopo la storia del circolo ricreativo. Ma la società di mutuo soccorso non si sarebbe mai mossa se non glielo avessimo fatto venire in mente noi, sia pure indirettamente. Gli alberi che abbiamo piantato attorno alla chiesa stanno crescendo e gli amministratori mi hanno promesso che provvederanno alla recinzione del terreno della scuola l'anno prossimo. Se lo faranno, un giorno sarà dedicato alla festa degli alberi e ogni scolaro pianterà un albero e nell'angolo accanto alla strada faremo un giardino. Siamo riusciti a condurre in porto tutti i nostri progetti fino ad ora, disse Gilbert, eccettuata la demolizione della vecchia casa Boulter, cui ho proprio rinunziato per disperazione. Levi non la butterà giù, se non altro per darci fastidio. Tutti i Boulter sono dei bastian contrari e lui più degli altri. Julia Bell vorrebbe inviargli un'altra deputazione, ma credo che la miglior cosa sia quella di lasciarlo completamente solo, disse Anna con saggezza. E di confidare nella provvidenza, come dice la signora Linde, sorrise Gilbert. Di certo niente deputazioni. Non fanno che esasperarlo ancora di più. Julia Bell è dell'idea che si possa fare qualunque cosa, purché vi sia una deputazione che l'appoggi. La primavera prossima, Anna, dovremo promuovere un movimento in favore dell'abbellimento dei prati e dei terreni. Cominceremo per tempo a seminare il buon seme quest'inverno. Ho qui un trattatello sui prati e su come vanno tenuti e voglio preparare quanto prima una conferenza sull'argomento. Beh, mi sa che le vacanze sono quasi finite. La scuola apre lunedì. Ruby Gillis è riuscita ad avere la scuola di Carmody? Eh sì, Priscilla ha scritto che lei assumeva l'incarico di insegnante nel paese dove vive, sicché gli amministratori hanno affidato a Ruby quella di Carmody. Mi dispiace che Priscilla non torni, ma dato che non può, meglio che sia Ruby ad avere il suo posto. Sabato verrà a casa e sarà come ai vecchi tempi ritrovarci, lei, Jane, Diana ed io, tutte insieme di nuovo. Marilla, che era appena tornata a casa da una visita alla signora Linde, sedeva sul gradino del portico posteriore quando Anna rientrò a casa. Rachel ed io abbiamo deciso di fare domani la nostra visita in città, disse. Il signor Linde si sente meglio questa settimana e Rachel vorrebbe andare prima che si ammali di nuovo. Domattina voglio alzarmi prestissimo, perché ho un mucchio di cose da fare, disse Anna in uno slancio di entusiasmo. Per prima cosa voglio cambiare le piume del mio piumone d'oca e metterle nella fodera nuova. Avrei dovuto fare già da un pezzo, ma ho continuato a rimandare. È un lavoro ingrato, ma è una pessima abitudine quella di rimandare le cose sgradevoli. E non lo farò più. Altrimenti, con che faccia potrò raccomandare ai miei allievi di fare subito e bene anche ciò che non piace? Sarebbe una vera incongruenza. Poi voglio cuocere una torta per il signor Harrison e finire lo studio sui giardini per la spa. Voglio scrivere a Stella e lavare e inamidare il mio vestito di mussolina e voglio cucire un nuovo grembiule ad ora. Non ne farai che la metà di queste cose, disse Marilla. Non mi è mai accaduto di programmare un sacco di cose senza che un qualche incidente sopravvenisse a impedirmelo.